risponde alle tue domande con i tuoi affetti, e sempre ti dirà le sue risposte, e sempre si sa. Sei pronta per Halloween? Avanti un altro è sempre qui. Avanti un altro è sempre qui. Avanti un altro è sempre qui. Avanti un altro spooky.